tutti. Trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini. Benvenuti alla quinta puntata di Proxy Bar. Buonasera Daniela Apollonio. Buonasera Antonio, buonasera a tutti voi. Siamo con 7 minuti di ritardo, Antonio. Vabbè, non è un problema, ci sono state le vacanze, dobbiamo portare dobbiamo la giustificazione. Dobbiamo riprenderci dai fusi orari. Beh, mi piacerebbe dire che sei molto abbronzata e rilassata, ma io so che invece hai lavorato sempre qua dalle 6 del mattino fino alle 2 di notte, quindi non lo posso dire. Non mi prendere in giro, guarda. qui non si finisce mai. Senti, però... lo sai che oggi abbiamo un ospite veramente straordinario, un uomo che ha avuto una vita avventurosa, anzi tra poco sentiremo alcune note biografiche. Dovrebbe quindi... esserci una scheda pronta per lui. Sì. Dovremmo sentire una scheda perché questa volta veramente forti emozioni. Forti emozioni? Va bene. Va bene. Nasce tra luglio del 1922 e Natale del 1933 a Calcutta e trascorre nell'Argentina meridionale fino all'ottobre del 1930 una lugubre giovinezza. Nella notte dei tempi compie il folle cimento di mangiare pandoro in umido per raggiungere Pozzuoli, dove si converte a seguito di un incidente al naso al brahmanesimo. Decide di coltivare la propria passione per il mondo della collezione di porta calza scarpe e del commercio di farfalle solo dopo la rottura dei sedili dell'auto nell'estate del 1969, mentre studia web design e poi, con devozione, frequenta un corso di ingegneria edile per tutta la vita. A soli 84 anni conosce una giovane ragazza bulgara con la quale si trasferisce nei boschi del Kurdistan occidentale e che gli donerà nell'estate del 1914 una splendida figliola sorda e poi ancora 43 gemelli eterozigoti nel 1980. Finalmente la sua vita subisce un repentino cambiamento quando decide di coltivare la propria passione per il mondo del safari e della bricconeria. Allora, Alvise, complimenti per la tua vita, indubbiamente molto avventurosa, abbiamo sentito questa scheda. Io credo di dover innanzitutto delle spiegazioni ai nostri ascoltatori, perché la biografia che abbiamo letto è stata inventata di sana pianta dal sito internet polygen.org, che è una esilarante, direi, applicazione di cui oggi parliamo con il suo autore. Polygen che cosa fa? Crea dei testi che sono prevalentemente comici, direi, a partire da alcuni codici di regole che vengono chiamati grammatiche. È nata, credo, nel 2004, quindi c'ha già qualche anno di vita, e Polygen può definirsi una delle prime applicazioni user-generated, in quanto in sé Polygen è solo una piattaforma, mentre queste grammatiche sono scritte dagli stessi utenti. Ne parliamo appunto con l'autore, Alvise Spanò, al quale intanto chiedo se è corretto quello che ho detto finora sul funzionamento di Polygen. Buonasera a tutti, innanzitutto. Buonasera. Sì, è corretto. Polygen è un programma che genera frasi casualmente, ma seguendo una sintassi e un lessico programmabili. È del 2002, non del 2004. Ecco, vedi. Il sito è quello che attualmente è online nella sua incarnazione attuale, è del 2004, ma precedentemente ce n'era un altro con un numero inferiore di grammatiche, ma lo stesso concetto, sin dall'estate del 2002. Comunque, il Polygen è un programma appunto che genera frasi e tuttavia l'intervento dell'uomo è fondamentale, nel senso che è necessario programmarlo opportunamente per fargli generare cose divertenti, in modo da poter generare frasi sì sofisticate, ma in cui molte combinazioni possano far ridere o possano comunque sottolineare degli stereotipi divertenti, e che è lo scopo, diciamo, del sito più che non del programma. Il programma di per sé è un generatore di frasi. Ok, e com'è nata, Alvise, l'idea di realizzare Polygen? In realtà è nato appunto per poter prendere in giro, fa un po' ridere la storia, per poter prendere in giro i titoli di film classici da blockbuster, che sicuramente tutti hanno notato che hanno sempre più o meno le stesse 3-4 formule che si ripetono. E inizialmente era un programma che generava solamente titoli di film. Ecco, quindi la prima grammatica l'avete scritta voi, cioè gli autori di Polygen hanno scritto anche le prime grammatiche. Certo, moltissime in realtà le ho scritte io e i miei collaboratori. Poi con gli anni è cominciato a diventare famoso e ho cominciato a ricevere grammatiche da parte dei fan, delle persone che frequentavano il sito. Quindi è corretto parlare di una prima applicazione user generated, cioè c'è una parte importante che si nutre dei contributi del pubblico. Sì, è corretto parlare di questa cosa, sì, anche se a volte non si fanno le cose cercando di cambiare la storia dell'informatica, però capita talvolta di fare qualcosa di nuovo quasi per sbaglio. Capito. Allora, Polygen è un programma open source, però vorrei che tu, magari per i meno avvezzi, spiegassi esattamente che cosa vuol dire un programma open source. Il programma open source sostanzialmente è un programma che è distribuito con il codice sorgente, ovvero quella parte di software che è scritta dagli autori stessi in un linguaggio di programmazione, e le persone interessate ad utilizzare il programma possono scaricare gratuitamente il codice sorgente del programma e compilarlo sulla propria macchina e generare il programma funzionante sul proprio computer. Compilare è l'operazione di tradurre, il codice sorgente in un programma eseguibile. Ho capito. Senti, se io volessi essere uno di questi, personaggi bizzarri che si mettono a scrivere le grammatiche, insomma, io quando dico personaggi bizzarri è in realtà un elogio alla loro fantasia, alla loro creatività. Di che tipo di competenze avrei bisogno? Cioè, quanto è difficile scrivere una grammatica per Polygen? Molte persone mi fanno questa domanda. In realtà non è molto difficile. Diciamo che è relativamente difficile scriverne una efficace, e per efficace intendo dire una grammatica che abbia un buon rapporto tra variabilità e umorismo. Per esempio, è molto facile scrivere una grammatica che mescola le parole moltissimo, prendendo da un dizionario molto ricco, ma che non genera delle frasi molto sensate. È molto facile scrivere una grammatica così. Viceversa, è molto facile scrivere anche una grammatica che genera delle frasi preconfezionate, pescando da un elenco di frasi già costruite. L'ottimo è scrivere una grammatica che sia una via di mezzo e che usi veramente la casualità per generare delle frasi che stanno in piedi sintatticamente, ma semanticamente no, e che quindi facciano ridere. È questo il punto. Senti, nel 1996 Corrado Giustozzi scrisse il suo primo motore sugli anagrammi. Sì. Ovviamente è rimasto alla sua fase primordiale, nel senso il tuo sito e la tua funzione, cioè tutto il tuo sito e il tuo progetto stanno evolvendosi col tempo. Lui è rimasto lì fermo alla versione numero 1, dove appunto con un generatore di algoritmi prende le parole e le cambia. Io ho trovato molte similitudini tra quel suo progetto di 11 anni fa e quello che ho visto sul tuo applicativo. Sì. Ci sono state delle ispirazioni da parte tua o neanche ne sapevi la conoscenza di questa cosa? No, francamente non sapevo la conoscenza di questo applicativo. Tuttavia, io sono un informatico, la linguistica è un ramo dell'informatica noto. Uh-huh. Alcune conoscenze che ci sono, diciamo, dentro il Polygen non sono farina del mio sacco, ma fanno parte di tutto una storia della ricerca linguistica agganciata all'informatica, che si studia anche all'università, si studia per passione, e diciamo che non è una novità il fatto di generare frasi data una grammatica. La cosa che a me pareva divertente era quello di sfruttare la casualità per generare delle cose comiche. Era questo il... E mi sembra che Polygen ci riesca. Sì, sia riuscito decisamente sì. Senti, Alvise, una delle cose più carine di Polygen, del sito polygen.org, è che queste grammatiche poi possono essere esportate liberamente sul sito o sul blog di ciascuno di noi, cioè semplicemente copiando alcune righe di codice, e anche io ho fatto questa cosa sul mio blog Pendo Delirio. Ho messo delle terzine di poesia giapponese haiku, che è molto molto credibile, forse una delle grammatiche che è più facile confondere con le vere terzine haiku, almeno per noi magari italiani. Un giapponese magari si renderebbe conto della differenza. Sì. Esattamente, quanta gente ha utilizzato questa feature di Polygen? Ma devo dire tantissimi, ma la cosa che mi ha sempre lasciato un po' con la bocca storta è che la maggior parte di coloro che utilizzano questa caratteristica di Polygen in realtà fanno riferimento sempre alle stesse due o tre grammatiche. E quali sono quelle che hanno più successo? I proverbi. Quella di proverbi è quella dell'uni euro. Mi sono rimasto impresse. Va bene. E tra l'altro, secondo me, non sono tra le almeno a mio avviso, non sono tra le più belle. Cioè, ce ne sono di molto più raffinate, secondo me, però probabilmente... fanno colpo, sai, umorismo universale. Le logiche che rendono qualcosa popolare su internet sono ancora tutte da esplorare. Senti, sempre per avere un'idea, adesso proviamo ad ascoltare un altro testo generato da Polygen, tratto dalla grammatica che si chiama Racconti Coatti. Stamattina io stavo a sfreccia palla de fuoco contro mano col motorino de mi fratello. Oh, non so andata a straiarmi contro un cartellone de merda, possi n'ammazzà. Allora niente, mentre mi stavo là a raccogliere i brandelli de carne, tutto mezzo rintorcinato, proprio in quel momento passa il marmitta, che mi guarda e mi si mette a ride. Bada, non l'avesse mai fatto. Gli ho strillato: oh, ma che te ridi, a belli capelli. Ammazza, ma che t'asciughi la testa con la carta di pizza. Ma dove vai ancora? Ma questo continuava a ride, se stava scompisciata alle risate. Allora gli ho detto: mo basta, m'hai sgarato li coglioni. Se te pio te manna a guardarli crisantemi da sotto, ti apro come una sdraia. Oh, ha smesso subito di ride, si è cagato nelle mutande. Ha detto una cosa tipo: ma perché te dà una cortellata? E poi se l'è sguagliata e ripartita a cannella. Insomma, so troppo bullo. Oh, so er meglio. Vabbè, ve saluto, mo me ne devo annà. Ciao a tutti. Va bene, senti, molto spesso noi di Proxy Bar, che cerchiamo sempre sul web questi contenuti, queste applicazioni meritevoli, secondo noi, di segnalazione, ci imbattiamo in persone che quasi sempre però poi non si occupano di queste cose come parte principale della loro vita, e credo che questo valga anche per te, e vorrei provare per una volta a approfondire la vita di almeno uno di questi creatori, e vorrei chiederti che cosa fai nella vita, a parte scrivere Polygon? Allora, io sono un informatico e il mio lavoro è fare programmatore, quindi comunque mi occupo di informatica nella vita. Okay. Tuttavia Polygon è una cosa che mi ha occupato relativamente poco tempo, nel senso che una volta è stato messo a punto nell'arco di qualche giorno e poi c'è stato qualche aggiornamento per un paio d'anni con una, diciamo, frequenza al massimo mensile. E quindi in realtà poi vive di vita propria. Io non, ormai la gente frequenta il sito senza quasi che io me ne curi o che me ne accorga. Comunque sono un informatico, suono anche semi professionalmente, ma non mi occupo di Polygon giorno e notte. Meno male. Senti, la creazione di Polygon ti ha in qualche modo aiutato nel tuo lavoro? Penso dal punto di vista più che altro scientifico e tecnologico, più che non per il suo valore mediatico o quant'altro. Cioè, fare Polygon è stato uno studio molto interessante sulla metalinguistica e quindi su un ramo dell'informatica che poi ho riutilizzato in altri progetti. Ma diciamo che nessuno mi ha mai fatto un'offerta di lavoro per Polygon, ecco. Nessuno lo conosce in realtà di coloro per cui ho lavorato finora. Senti, un'altra domanda. Alcune grammatiche fanno morire dalle risate, altre invece possono essere fraintese, viste male, dare fastidio. Hai ricevuto mail o commenti negativi che ti chiedono di fare qualche azione? Ho ricevuto dei commenti negativi per quanto riguarda una grammatica che genera i titoli che la gente si mette sui bigliettini da visita, soprattutto nelle aziende di informatica. Ah, sì? Se non mi sbaglio. Sono suscettibili. Ricordo che all'epoca in cui la feci lavoravo per un'azienda che si offese. Perché in realtà ero largamente ispirato ai loro bigliettini. Allora si sono riconosciuti nella tua grammatica. Sì, il problema è che era molto fedele alla grammatica, così, cioè. Senti, forse la grammatica più, tra virgolette, hard di Polygon è quella dedicata a Melissa P, che ricostruisce artificialmente alcuni brani del suo famoso manoscritto, i famosi 100 colpi di spazzola. E volevo chiederti se questa grammatica ti ha creato per caso qualche problema. No, assolutamente, anzi è stata molto gradita. Non è mia, tra l'altro, quella, è di un amico che conosco comunque, ma no, assolutamente. Comunque, in linea di massima, mi sembra di aver capito nel corso degli anni che ci sono due tipi di persone che frequentano Polygon.org. Quelli che arrivano non capiscono niente, cioè non capiscono neanche che ricaricando la pagina cambia la frasetta, il contenuto è diverso, certo. E se ne vanno, e sono quelli probabilmente che si offenderebbero. E poi ci sono invece quelli che capiscono e che sono sicuramente coloro che non si offenderebbero mai. Perché probabilmente pensano che qualcuno abbia scritto con le proprie manine sulla tastiera quel testo per farlo rimanere permanentemente sulla rete, cioè non hanno capito il meccanismo. Non hanno capito niente, non hanno capito il meccanismo, sì. Ce ne sono molti. Senti Alvise, adesso ti rivelo, la mia grammatica preferita è Art Exhibitions, che secondo me mette a nudo l'assoluto vuoto pneumatico che ruota intorno a un certo modo di concepire, soprattutto di promuovere l'arte, ed è una grammatica scritta in inglese. Vorrei sapere a chi è venuta in mente. È venuta in mente a me e l'ho realizzata insieme a un mio amico di università. Ho capito. Perché è un classico andare alle mostre e leggere quelle didascalie con, tra l'altro, quello stile dei caratteri illeggibili, che si mescolano tutti quanti insieme. Non so come dire. Cioè, e questo prendeva in giro. Anche l'HTML stesso genera con i caratteri, con le righe sovrapposte, non so se... Sì, sì, non è casuale, è fatto apposta, me ne rendo conto. È fatto apposta, sì, per prendere in giro la grafica classica delle mostre. Thank you. Allora, Alvise, adesso sentiremo un'altra grammatica. Non voglio dire niente perché penso che gli ascoltatori la riconosceranno. Amber cerca di capire il segreto di Amber a Massimo Marone, il quale frequenta segretamente Sally Spectra, la quale finisce in ospedale. Ciò nonostante, Brooke vuole vendicare Eric a tutti i costi, dopo che decide di lasciare la Forester a Brooke, la quale inaugura una nuova linea di reggiseni. Improvvisamente Brooke e Megan vogliono dare vita ad una nuova progenie, mentre Taylor vuole far dimenticare Thomas a Morgan. Ciò nonostante, frequenta segretamente Maisie, che conquista Kristen. In quel mentre, Lorenzo telefona a Massimo e gli rivela tutto. Ecco, abbiamo sentito una grammatica che si chiama, ovviamente, Beautiful, e vorrei chiederti, secondo te, perché molti creatori di grammatiche attingono così frequentemente dal mondo del trash? È una domanda... Allora, io credo che il punto è che molti creatori di grammatiche, ho notato, hanno una specie di affinità umoristica e quindi sono portati a convergere anche su opinioni analoghe anche su altri temi della vita oppure su come su giudizi riguardo alla musica, ai media, eccetera. E quindi in realtà è come se fossimo tutti della stessa pasta e sentissimo tutti forte il bisogno di prendere in giro le stesse cose e più o meno sono sempre le stesse, cioè le cose ridicole, le cose esagerate, tipo i film, i titoli dei film, i linguaggi, tutti questi stereotipi che sono assolutamente sono ormai inaccettabili a mio avviso. Beh, tutto quello che fa parte della grande rosticceria dei media, direi. Quasi. Sì. Adesso, quasi tutto. Adesso Daniela ti invito ad ascoltare un'altra grammatica, anche questa molto divertente. Dovremmo rimappare lo sviluppo di piattaforme e dovremmo definire delle strategie virtuali degli applicativi fine-grained. Bisognerà surclassare il design di information retrieval con cui pertanto potremmo debuggare lo sviluppo di applicazioni. Sarà possibile reimplementare applicazioni applicate affinché si debbano realizzare delle soluzioni faxate, perché bisogna surclassare il design di servlet perché si possa testare lo sviluppo di servlet XML per implementare il design di piattaforme. Beh, allora intanto complimenti alle ragazze che hanno letto queste cose, perché non è facile. Alvise... Io non ho gli altoparlanti accesi. Sì, no, tu non le puoi sentire, va bene, abbiamo sentito il manager della New Economy. Ah. Alvise, da quest'ultima grammatica abbiamo colto un certo fastidio della comunità che ruota intorno a Polygen verso un certo modo di intendere la tecnologia. Pensi che abbiamo superato, almeno nell'information technology, la fase delle parole a vanvera o che ci sia ancora molto da lavorare? C'è ancora tantissimo da lavorare. Diciamo che anni fa, dopo il boom di Java, delle web application, eccetera, c'era un abuso totale di questi termini. Adesso la situazione si è calmata, però comunque non è risolto il problema, non si può fare altro che prenderli in giro, non riesco a fare altro, non riesco a fare di meglio di così. Posso farti una domanda? Sì. Il tuo punto di vista sul web 2.0? Probabilmente sono la persona sbagliata a cui chiedere questa cosa. Intanto web 2.0 non è più che altro modo di intendere il web, più che non qualcosa di concreto. Allora, se devo dare un giudizio equilibrato, ritengo sia un'evoluzione ragionevole del web e della comunità che ci ruota intorno. Se invece devo dare un giudizio sulle persone che sbandierano il web 2.0, direi che sono persone, diciamo, che hanno fatto della creatività il proprio standardo, ma comunque non sono gli unici creativi della Terra. Contrariamente a quello che loro credono. Diciamo che credono che la creatività sia solo quello, Sì, e quando poi invece ci sono persone che magari fanno qualcosa di creativo, ma è molto più complesso da comprendere e quindi non è per palati un po' meno grezzi, se mi concedete l'espressione. Va bene, noi ti ringraziamo infinitamente del tempo che ci hai dedicato, buona fortuna con tutti i tuoi progetti, non solo Polygen, il tuo lavoro. Mi raccomando però, tienilo in vita Polygen, perché almeno su di me ha un forte potere antidepressivo. Grazie tante. Grazie ancora. Grazie mille. Grazie a voi. Radio Imago. Radio Imago. Entra nel sogno, ascolta l'immagine. Bene, allora ti è piaciuto Polygen, Daniela? Sì, mi è piaciuto molto. In questi giorni ci hai un po' navigato. Ci ho giocato. Allora, il sito è Polygen, anzi scusate, www.polygen.org. Ma tanto tutte queste informazioni le riporteremo sul nostro blog, quindi... Sì, stavolta mi sono ricordato di aggiornarlo, c'era la preview sul sito. Daniela, stai tranquilla che anche io, insomma, in qualche modo funziona. Sei bravissimo con la scelta dei contenuti, con la scelta degli ospiti, no. E della co-conduttrice. Allora, per quanto riguarda le chicche, allora, in questi giorni che sono stato via per Pasqua, io mi sono portato dietro un po' tutta la combriccola degli amici, no, le varie community, senza volermi portare via il computer, e così ho scaricato da internet un'applicazione che si chiama fring.com, Firenze, Roma, Imola, Napoli, Genova.com. Che è praticamente un client che si installa su qualsiasi cellulare, diciamo, abbastanza avanzato, e che permette di gestire dal cellulare tutti gli instant messaging, i vari Skype, Google Talk e persino una cosa che tanti amano e tanti odiano e che si chiama Twitter. Di cui parleremo in un'altra puntata. Sì, no, adesso non voglio stare qui a perdere tempo con Twitter perché merita un approfondimento. Quello che voglio dire è che questo Fring, che voi abbiate, che so, Google come instant messaging oppure Skype, potete anche fare le chiamate in voice over IP, cioè gestisce tutto e ve lo potete portare in giro sul telefonino. Tutto ciò significa che tu debba comunque essere connesso? Devi avere una connessione dati. Infatti io non lo uso per fare le telefonate voice over IP, perché alla fine mi costerebbe di più. Lo uso invece per l'instant messaging, perché in realtà il costo di un messaggino con una qualsiasi tariffa dati anche mobile è inferiore agli SMS. È molto inferiore, perché un SMS viaggia oltre le decine di centesimi, mentre che so il messaggino che tu mandi per esempio su Twitter, mi dispiace dirlo, però tramite Fring costa un centesimo, cioè sì, ma quindi se io e tu tu paghi anche traffico mio, nel senso quando io ti rispondo, sì, in entrata pago in entrata, anche il tuo, quindi sì. Più uno chatta con te, più questo scambio, sì, ma, di ma ci vogliono 70 messaggi di instant messaging per arrivare a quello che ti costa spedire un solo SMS sulla rete. Ah. E quindi c'è questo vantaggio, ripeto, io non lo userei come voice over IP perché ancora non esistono tariffe mobile flat cosiddette in Italia, non ci sono, non so perché, mi dispiace, ancora per poco, ancora per speriamo poco. Anche perché sarebbe un buon modo per sentire Radio Imago sul cellulare, giustamente. Però questo è un programmino che consiglio per quando non volete portarvi dietro tutto l'ambardan del computer, la connessione a internet, o magari in luogo di vacanza non avete la connessione a internet fissa, vi portate dietro tutto sul vostro telefono cellulare. Non si finisce mai di imparare con te, tu e il tuo telefonino, cosa non ci farete conoscere. Io invece vi parlerò di un servizio sul quale però sono, cioè ve ne parlo perché può essere utile, però purtroppo a me non è più utile perché me lo sono appena sviluppato da sola. Vabbè, tu sei un caso partito, cioè i nostri ascoltatori non sono sviluppatori. Lo so, però insomma io ve ne parlo perché secondo me è utile. Iofatturo.it, okay. È un sito, un'applicazione web-based gratuita con la quale chiunque può inserire i propri dati dell'azienda o della persona fisica, i dati dei propri clienti, e ogni volta va lì sul sito e mette le proprie fatture che vengono spedite via mail direttamente ai clienti. Questo mi sembra molto utile, soprattutto considerato che noi siamo il paese delle partite IVA, no? Esatto, quindi... E quindi sì, forse proprio giusto in Italia poteva nascere una cosa del genere. Iofatturo.it. Bene. Allora, sì, due chicche molto interessanti. Adesso credo che sia giunto il momento di introdurre con due parole che in realtà è una guru. Sì. Adesso io non sono un esperto di India e di cose indiane, non so se possono esistere le guru, però questa è una guru veramente coi fiocchi. Si tratta di Marina Bellini, che è un personaggio che ha fatto tante cose nella vita, anche la regista di documentari per la Rai e così via, e che ha comunque sempre conservato una grande curiosità per tutto ciò che è moderno, in particolare per i blog, soprattutto i blog che hanno un profilo letterario, ed è la madrina di un evento che si chiama Più Blog. Adesso io non voglio andare nei dettagli perché poi questa cosa verrà detta un po' meglio anche nell'intervista. Mm-hmm. E quindi direi di ascoltarla con attenzione. Guru Meditation. Allora, Bar Camp di Roma, siamo in compagnia di Marina Bellini, che ha mirabilmente diretto la rassegna Più Blog, che si è svolta a gennaio al Palazzo dei Congressi, nata in un sottoscala di una manifestazione più ampia per poi diventare fatalmente invece la più seguita poi alla fine delle varie sezioni di quell'evento, dove a tanti blogger è stata data la parola per esprimere il proprio punto di vista in un mondo tutto sommato chiuso come quello dell'editoria. Poi il discorso è spaziato sui nuovi media, sul rapporto tra politica e nuovi media, eccetera. Qui invece, con la tua straordinaria eleganza, sei in un contesto completamente diverso e disomogeneo. Non c'è nessuna continuità tra il personaggio e il contesto, perché siamo in un posto che ricorda vagamente un centro sociale, che però, insomma, quando hai preso il microfono e ti sei messo a parlare, ti ha seguito con molta attenzione perché hai parlato di cose molto interessanti. Ce lo vuoi sintetizzare brevemente? Ma io ho parlato degli aspetti relazionali della rete, cioè delle sottili linee d'ombra che a volte impediscono la comunicazione, la reale comunicazione che ci dovrebbe essere tra un utente, diciamo che è brutto questo termine utente, però tra una persona e l'altra, appunto in rete, il dialogo dovrebbe essere molto fluido, alieno da tante problematiche, e invece a volte ci sono queste barriere che sono di varia derivazione. Per esempio? Derivazione psicologica o derivazione mass mediatica, e cioè noi ci portiamo dietro dei retaggi che abbiamo acquisito inconsciamente dalla televisione, dalla pubblicità e dai giornali. tradizionali, li abbiamo assimilati come i media tradizionali e come facente parte del nostro contesto proprio di modus di pensare, di anche un'organizzazione mentale, no? Per esempio i nostri riflessi condizionati, io anche mi rendo conto aprendo il giornale che un titolo di giornale deve essere fatto in un certo modo, no? Per rispondere a un certo tipo di aspettativa, mi rendo conto che un certo tipo di inquadratura in televisione deve essere fatta in un certo modo. Per esempio vedo i politici che ormai non guardano più in faccia l'interlocutore ma guardano direttamente in camera. Che cosa c'è dietro tutto questo? C'è un'involuzione culturale oppure un particolare momento di media spazzatura che presto ci lasceremo alle spalle? Ma guarda, io sono stata un regista, ho avuto i grandi maestri come registi, ho avuto Enzo Trapani, Mario Landi, erano veramente dei portenti e mi hanno insegnato come si fa la televisione. Io so fare la televisione di qualità in un certo modo, oggi non la faccio perché proprio non serve perché non fa testo, ma non fa testo secondo me perché il problema non è che il pubblico non la vuole, è proprio chi organizza che non la sa fare, cioè loro non hanno la cultura necessaria per farla e quindi tutto si appiattisce, tutto diventa inutile. Io ho visto giusto l'altra sera un magazine su Rai 2, ed era il magazine sul 2 mi pare, e c'era un'intervista bellissima, è durata un'ora, dopo la mezzanotte, a Vittorio Storaro. Era fatta benissimo, girata in una maniera meravigliosa, c'erano pochissime luci ma messe bene, c'era un montaggio perfetto, era tutta straordinaria e ho detto questa è la televisione che io vorrei vedere tutti i giorni, sempre, comunque, e invece no, bisogna aspettare dopo la mezzanotte per vedere se capita, cose belle. Senti, io sono Marina, sai che sono un po' un provocatore, facciamo un gioco, secondo te il TG2 che è venuto qua con una telecamera o magari un giornalista della carta stampata tradizionale di cui praticamente qua non si è fatto altro che parlare male, viene qua, poi deve scrivere un articolo, devono montare un servizio, che cosa diranno? Come lo presenteranno? Come un covo di tech geek? Cioè, riusciranno a cogliere qualcosa di quello che veramente sta succedendo qua? No, per cogliere quello che sta succedendo, quello che è successo oggi, credo che sarebbe stato necessario stare tutta la giornata insieme a noi, no? E quindi condividere, perché questa è una giornata di condivisione, di esperienze, di tematiche, di tanti settori che sono quelli della rete, che appunto è tante cose, la rete non è una cosa sola. Per i tradizionali reporter non lo so, io credo che ancora, se a meno che non la pratichino, secondo me non lo sanno e quindi il messaggio non passa sicuramente. Tornando a Più Blog, proprio pochi giorni fa ho letto sul blog di Più Blog, se mi si perdona il gioco di parole, che ci sarà una edizione 2007 più bella che Pria, più grande, più interessante, e tutto questo insomma non può che farci felici. Che ci puoi dare qualche anticipazione? Che caratteristiche avrà rispetto alla edizione del 2007, gennaio 2007? Ma la caratteristica fondamentale è che siamo diventati gli ospiti ufficiali, cioè non siamo più ospiti, a dire il vero. E prima eravamo in un sottoscala come i primi recital di Renato Zero. Adesso credo che continueremo a rimanere nel sottoscala, ma io sto già pensando a una luminosa che ci porta giù e ci accompagna con delle luci, delle cose meravigliose. Se entrassimo nella nuvola di Fuxas? Potrebbe essere carino. Comunque ho già interpellato un architetto bravissimo che ha preso grandi premi in America, e quindi avremo sicuramente una scenografia che ci farà entrare in una dimensione diversa. Lascia perdere il sottoscala, ma credo che arredandolo come si deve, con il tempo soprattutto, che l'anno scorso non abbiamo avuto, l'anno scorso, quindi credo che l'edizione 2007 avrà proprio la caratteristica di accogliere, no? Cioè noi dobbiamo ricreare lì la borgosfera, anche se il tetto è basso, va benissimo. Beh, se ci pensi, il fatto di essere in un sottoscala, esatto, come dici adesso fuori dal microfono, ha detto è un utero, e adesso lo ripeto a beneficio degli ipoudenti. No, volevo dire, è stata una bellissima metafora, perché tutto sommato era un mondo sotterraneo rispetto alla teoria ufficiale, e paradossalmente non poteva essere meglio rappresentata la realtà dei blog. Bene, quindi a questo punto possiamo sperare in una prossima edizione più blog ancora più bella. Possiamo immaginarci un accesso, ecco, soprattutto del pubblico che rimane completamente tagliato fuori, a questo evento e a tutto quello che succede nella blogosfera, sempre più importante. Però, come dire, ci siamo lasciati agli ultimi dibattiti, no? della scorsa edizione un po' con un dubbio. Ma non è che ce la stiamo cantando, ci stiamo facendo dei complimenti, io ti faccio un'intervista e dico quanto sei stata brava, e tu mi dici ma che bravo podcaster che sei. E poi qui c'è questo clima un po' di autoesaltazione, che è secondo me ciò che più di tutti allontana, diciamo così, chi non conosce veramente questa realtà. Allora il tema è quello della autoreferenzialità, no? che prima cercavamo di respingere. Secondo te riusciremo a sconfiggere completamente tutto questo, questa tendenza, oppure tutto sommato poi in realtà un po' di autoreferenzialità ci vuole? Non bisogna avere paura di parlare di noi stessi, sennò si corre il rischio opposto. No, ci vuole una volontà di autoaffermazione, ma quella positiva, nel senso di dire io conosco, so chi sono, conosco i miei valori, rispetto i valori dell'altro, mi confronto, e a questo punto insieme possiamo fare delle cose. Questa si chiama cooperazione, non si chiama autoreferenzialità, soprattutto nel momento in cui si interagisce e si collabora, perché la cosa fondamentale nella blogosfera, in eventi come questo, è la cooperazione, la collaborazione. La stessa cosa serve per più blog, quindi sicuramente tra pochi giorni, i primi di febbraio, cominceremo a chiamare un po' di blogger e dire signori, mettiamoci tutti insieme e facciamolo il progetto, perché io d'accordo, porto avanti un'idea e tutto il resto, ma non è sufficiente. Credo che sia bene che tutti quanti diano il loro contributo con le loro idee, perché è questa che ci fa crescere e ci fa diventare più grandi. Abbiamo acquistato uno spazio, abbiamo ottenuto questo spazio, benissimo, utilizziamolo tutti insieme. Ultimissima domanda, forse la più spinosa: come donna ti dà un po' fastidio questo fatto di vedere in un evento come questo ogni 9 uomini, forse anche ogni 15 uomini, una donna? Cosa tiene lontane le donne da tutto questo? Le maggiori responsabilità, il fatto che poi alla fine si occupano delle vere cose importanti della vita, oppure? Non lo so, sai, le motivazioni sono numerose. Io ho provato a lanciare questo dibattito, non c'è stata una grande risposta, benché insomma ci sia una risposta. Perché gli interlocutori eravamo noi, per questo non c'è. Eravate voi maschi, quindi, però appunto le donne poi non sono venute a dire esattamente perché non vengono, ma probabilmente c'è, non lo so, io ancora il motivo. Sai che quelle poche che ci sono forse non sono molto interessate a rispondere a questa domanda. Sì, non sono interessate a rispondere perché probabilmente sono ancora, ahimè, interessate a un altro settore della rete, che è quello del luogo dell'immaginario, che invece non è, perché io da testimone insomma degli anni 90 posso dirlo tranquillamente, non è il luogo dell'immaginario, le relazioni online non funzionano, ragazze, sappiatelo, non ce n'è una che vada in porto come si deve. Grazie. Allora Daniela, sei d'accordo con l'interpretazione? Guarda, mi è piaciuto non poter essere lì con te a fare queste interviste, perché io non avrei avuto di che dire con Marina. Marina ha detto delle cose molto belle, ma la domanda più spinosa che gli hai fatto non mi è piaciuta come risposta, perché le donne che lavorano in rete non hanno il tempo di andare a fare PR, perdonami Marina, ma io stavo qua dietro a lavorare, a cablare cose, e poi non è vero che le relazioni dell'immaginario non funzionano, perché ti assicuro che le relazioni con le persone, cioè non diciamo che il mondo virtuale è così distante. Il mio professore di informatica si è sposato con una conosciuta su internet e hanno 4 figli. Cioè, i casi ci sono. Dalla regia mi stanno facendo cenni osceni. Non abbiamo il contraddittorio, mentre Attilio dietro il vetro fa dei cenni abbastanza eloquenti. Va bene, allora io credo che per oggi possiamo chiudere. Non abbiamo il preview della prossima settimana, però abbiamo detto un sacco di cose oggi. Speriamo, sì, che ci ascoltino anche con il podcast, oltre che con lo streaming. Sì, darci il tempo di tagliare, cucire e mettere online, quindi diciamo da stanotte in poi sarà possibile scaricarci. Va bene, allora grazie a tutti per l'ascolto, a giovedì prossimo. A giovedì prossimo, presto. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.